Croce! E beh, oh, è squalo! Buonasera! Buonasera, chi sono io? Sì, altri non lo so già, dice Branco. Vedi che ti sei sbagliato. Ah, ogni volta ti sbagli. Allora, sei Gianni. Beh, sono reso papà bagnato. Sì, vabbè. Ma la volta di qua c'è più già Franco. Certo, ma non c'è più inteso. Oh, sempre in tournée. Lui c'ha il camper, se ne va in giro. Chissà dov'è adesso. Ogni tanto vanno in giro, capito? E fanno bene. Sì, vabbè, tu. Che dobbiamo fare? Vabbè, piglia di un brutto lugar, perché sei in pensione, va. Mi sono stato al coso, me l'avevo abbigliato la prima, va, già me ne importava. E mi ha gana di viaggiare. Sì, vabbè, non ho di lontano, non di visio, ma non ho che sei al mare, badì. Ti fai la giornata al mare, c'hai il posto per mangiare, per riposarti. Ehi, vuol dire, visto, a volte avere un camper vuol dire molto. A me ho di 20.000 euro, non lo fai. E non mi lascio con la mano, bisogna di mirare l'Uruguay. Non ho costato di 50.000 euro, Guscia. Certo. La seconda mano, cioè, meno di 20.000 euro, buono non lo trovi. Ma cosa, io ho visto che sì, 7.000 euro. Voi, mille. Cosa vedi, un carraggio, quindi. Ma ci deve pure sempre di una andanza. Ah, ma saranno. Tu vuoi la roba vede pagare la moglie, sì. Ah, un camper, insomma. Con 20.000 euro c'è un camper buono. E il camper hanno tutti i chilometri, c'è poco da fare. Sono usati per quello, per viaggiare, quindi i chilometri ce li hanno tutti. L'interessante è che siamo tenuti bene, che siamo stati fatti tagliati. Allora, se lo trovi lo devi trovare buono, lo devi trovare. E secondo me devi conoscere la persona da cui lo compri, perché magari lo vuole cambiare per prenderselo più grande, e quello che c'ha è buono, capito? Così è bello, va, se no abita lui così all'oscuro di tutto, non si sa che cosa incappi. Infatti così non si sa cosa incappiteggia, è buono. Perché poi i camper hanno questo difetto che perdono acqua, che infiltra l'acqua, dove sicuramente come sono un po' vecchiuti, infiltra l'acqua. Quello è, quando già cominciano a servirci, deve solo rottamare e basta. E invece c'è gente che fa i soldi se lo prende nuovo, e lo dà a chi magari non può permettersi di prenderselo nuovo. Sono sceso io giù a Portatore già a vedermi. Meno di 35.000 euro non lo potevi prendere. Anche se gli va via di 15.000 euro è garraggi. Da trapasso sei andato. Ma l'unico che c'è a Portatore giù. Luciano, io lo conosco bene. Ha fatto vedere il camper che meno di 35.000 euro non potevi prenderli. Ah, quindi l'intenzione ce l'avevi? Ce l'avevo l'intenzione, di bene a mio. E sta sempre in giro, usava della domenica. Però, meno di 35.000 euro l'avevo pagato. E poi bisogna vedere se dopo che lo prendi con lui sia buono pure. Magari c'è da fare la distribuzione, c'è da fare il motore, insomma, fanno un bel di chilometri con la macchina, c'è poco da fare. Li usano per girare. Ma quello che avevo visto io era buono, chilometri ne aveva poco, ne aveva fatto poco perché il padrone. Dopo un mese girava, è tornato e c'era pigliato più un anno. Quello stava dando quello, 35.000 euro lo stava dando. Però va via pochi chilometri, tenuto bene e tutto quanto. Era nuovo lui. E che cos'era Ford come macchina? Che cos'era? Ford, Fiat, cos'era? Cosa era? Ducato era. No, non glielo parlo bene. Sono anche veloci Ducato. però sempre bisogna vedere se è quello. Ma se c'è il figlio, perché lui non ho più visto io a lui. Il figlio c'è, no? Il figlio c'è. Poi te lo dà garantito, 35.000 euro garantito. E non farà manco un centesimo. 35.000 euro, dove vede il numero? Tenuto abbastanza bene. Ma vi ha detto, pure una cosa la via, la parabola che ci aveva, l'antenna orientabile ci aveva, che vedeva il televisore dentro. Ecco, nel televisore di un po' grandetto. Ci sono quelli che si mettono anche i pannelli solari, quindi io ieri la portavola ce l'era uno, c'aveva i pannelli solari, c'aveva la luce tutta la sera accesa, tutta la sera. E con i pannelli solari non si scarica mai con la batteria, se la ricarica di giorno, capito? A me sembra che ce l'aveva i pannelli solari, orientabili, ce li aveva. Secondo come mettevi il camper, si giravano i pannelli. Questo qua che ho visto io era vecchio, era di quelli proprio dell'anteguerra, degli civici. Però c'era una coppia giovane, deve essere, però solo di sarebbe da lui, si sono accontentati, si sono andati a fatta buona, non vanno lontano perché magari il motore non ce la fa. No, visto che ero bagliandiero, nuovo luogo si può dire, ben messo, e dentro era bellissimo dentro. Quando era giudito, ero pronto a farmi un coso, un prestito dalla banca. Aspetta che c'è un break, va, discretamente, dai, si dà sorso. Non è che sei fortissimo di radio, si occupa un po' di radio, però ci sentiamo. Io sono a Sassari, non sono a Portavola, sono a Sassari, grazie in Baramobile. Io sono a Sassari da Zora Montarosello, va? Sì, che antenna c'hai? Ah, un portatile c'hai, sì, va bene. Però va bene, dai, sei un portatile, ti ha tranquillo. Dove sei a Portavola? Allora già ci sentiamo, dai, tranquillo, vabbè che la zona per me è favorevole. E a Costantino va di dove sei, di Sassari? Ah, ho capito, dai. Va bene, 63, la radio è 4. Avanti, Tore, saluta Costantino. Oh, io non la cosa terra a terra, brutti. Non riesco a manca a capirlo. Zero, porto zero. Comunque, buonasera Costantino, se mi sono ascolti. Non ho ascoltato, attore. Non ti ascolto, attore. Non ascolto io neanche adesso. Se sei pulsato, prima non ascoltavo appena, ma non ascolto nulla. Magari sembra in una zona migliore, forse che lo ascolti. Bello, Costantino, dove sei adesso? Io ti ascolto, non c'è problema. Certo, se ti sto rispondendo. Se no dai la ripusola. Non si fa più attività col baracchino, non se ne fa più attività. Prima si faceva matricidio, tutte queste cose, però non si fa più. Adesso siamo rimasti in punto. Ecco, tanti adesso ti ho perso, e dai, ti saluto. Buona serata. Avanti tu. Saluto la parte mia, che io non ho fatto mai nulla. Quest'anno ti saluto anche tu, dai, non ti sento più. E isso, questo vuole così. Appena lo sento. Ah, che vai che cosa, l'antenna è tutto due volte. Non lo so cosa... Cosa faccio? Oggi la propagazione non è favorevole a me. Aspetta, attenzione collega, se ascolti l'isola sarda, la città di Sassari che chiama, avanti. Sparita, propagazione è corta. Sì, non è favorevole molto. C'è un po' di propagazione, ma non è molto favorevole. Chissà, E quindi stavamo dicendo del capro, questo qua aveva tutto. E anche un 3 miliardi tutto. Infatti la banca non me ne ha dato le nasse. Ma va per qualcuno che mi ha fallato. Perché? Scusa, non c'è la pensione tu? Sì, la pensione sì, ma devi fare 20 anni pagando. Sono patricato con l'età che c'hai, tutto quanto, 20 anni sono bei, se mi dà, sono capito. Infatti, 10.000 euro andavano, ma 35 non da davvero. E con la finanziaria l'hai provato, a vedere quanto ti prego. Poi, finimila, sono già provato per la banca, ma prima. Allora ho provato con la finanziaria, nessuno no, non si è permesso di darti nulla. 10.000 sì, fino a 15.000 potevano darti, però non di più. Adesso non si fidano più perché c'è gente male bagadora e così da studi. Io te l'appoggio. Ah, mio Antonello, mio Antonello! Ricorda che già il 13 abbiamo la processione lì. Il 13 di questo mese? Al prossimo, no è questo mese, è il prossimo. Va bene, non c'è problema, già me lo segno adesso. E ce ne ha diru. Occhio alla fronte. Già ci siamo il giorno prima per quello a Tarschio. E là ci torniamo a sentire, bambino intattiro. Avanti signor Gianni. E la processione dei cibi? No, la processione del latte dolce. E come cosa di accompagnamento con la radio? Almeno beviamo mettiamo gratis. Infatti così. Ma ti mangi così basso? Perché sono con la magnetica sono. L'antenna grande si è sciuccia per il fulmine. C'è un fulmine vero o un fulmine che ti ha colpito? E allora? Un fulmine in orizzontale ma cribato. Questo è l'antenna e i due televisori. Ma se ti metti quella tipo quella micosa di Littore fatta così te la fai, quella lì non è attiva il fulmine perché è vetrorigida. Sì, ce lo vedete il cavo dentro per sicurezza. No, magari la canna da pesca è anche in fibra, secondo se prende quella in fibra, la fibra la tira tempo là. No, questa non la tira. Non è quella fibra, questa non la fibra. Dovrebbe essere fibra di carbonio. E infatti dovrebbe essere fibra di carbonio, ma che altro fulmine. Ma questa non è fibra di carbonio. E infatti quando andavo a pescare che c'era temporale usavo l'altra canna, quella normale, quella dovrebbe essere rigida. Quella normale devi usare. No, quella di armonia che dice, diceva che il temporale ed è agiome per tirare i fulmini. Una volta ci siamo fatti come pulcini, ma non so quanto abbiamo pescato con il temporale, piovenna di rote, la mamma mo lo cattare, ho visto che c'erano quelle rientranze nel muro, ci siamo messi dentro il muro, la mese girando rumani e dal mare di fuori cazzo, arrivavano le onde e coprivano cazzo il molo dall'altra parte. Non sapevamo come fare a uscirci cazzo, abbiamo cercato il momento che non c'era l'onda, io ce l'ho fatta, l'amico mio non ha bisogno di piedi. Ma tutta apprezzurato là. Purtroppo. E noi eravamo già bagnati perché stavamo prendendo l'uso, abbiamo preso un medi saraghi, va mille, uno più grande dell'altro. E questo amico mio c'era mania di rubarino, ha detto, ma gli un pezzo di carri imparando, vedi. Ha preso un roccale grande, enorme, con la carne macinata, ma te lo immagini, con la carne imparata. La cosa non c'è il pesce che c'ho fame. No, ma il danno da mania tu. Lui l'ha fatto per scherzare, mica. Andiamo in regalo, lui mi ha due, fa per la lampada. E poi un roccale deve essere va via a fame, va via. E ha buccato subito. E lo metto, un bel roccale. poi ha trovato un'altra ti lanciava sempre lì e prendeva sempre roccare, ce l'ha preso due o tre mesi, più piccoli di quello però sempre mesi. E una bella giornata quella, stiamo pescando bene, infatti non ci siamo musi, crumari, gara mille, guarda, eravamo camiciabizzati, l'onda dalla parte del mare di Furia arrivava dentro il molo e saltava sul muretto, noi eravamo sotto il muretto, quindi a schizzo. E avanti tutto giarrato invece. Antonio, ancora ci sei? Sì, sì, ci sono ancora. Gianni, guarda se sente Antonio Bombo, dite che l'apparecchio è solo messo a posto. E lo può anche ritirare. Sarà tutto ovvio. Che apparecchio? Quello che mi ha portato al sistema di microfono. Ah, va bene, tocchiamo. Ah, aspetta, sta con te, no, poi c'è la frequenza, non questo. Il microfono del microfono mi scalda il dito. Sì, allora dovrò entrare, no? Ma non so, c'è travagliente. Anni. Aspetta un attimo, ma vado, ma sa. Sì, adesso mi rompi. E allora, Antonello? Aspetta che passo con l'altro palazzino, se no cazzo, piglio fuoco con lui. E non sciogliello. Ecco, sono entrato. Ma c'è la parola più forte del radio. Sì, stavo con il microfono amplificato, già lo credo. Allora con questo sono tranquillo. Ma col cavo devi fare niente, ho capito. Come tocco il microfono, l'aggancio del microfono normale. Cazzo, mi scalda il dito, mi scalda, cazzo, me lo buccio. Perché te lo devo scaldare il dito? Adesso già sono andato con coso, cioè uno stazionario, cioè. Già va bene, capito, poi con 10 watt a voi. Sì, la moglie qui c'è un ma ti scalda il coso del microfono, ti scalda. Allora, se ci appoggio il dito dietro, dove c'è il gancio per appendere, cazzo mi scalda il dito mi scalda, cazzo me lo produce adesso. Oppure non dovrebbe scaldare quello lì, non funziona normale. Non lo so, lo so usare io sì. Infatti adesso lì, il 27 vado mi prendo la cosa. Mi devo dire la via 27 L, mi ottimo. Della Sirio è piazza quella. Allora, Antonio l'ho avvisato, stava lavorando, sta facendo le bombole. L'ho avvisato, ha detto che come finisce prende la moto e passa. Va bene, aspetta che. E lui che mi sta chiamando al telefono, aspetta. Ma Lugariano, disopponendo. Alice, ma tutti i soldi, tutti strani. Il signor Baracchino ha avuto nel clima dove aveva messo quel bip, non so quanti tu, perché a minori, minori. Certo, Bulgariano, non è una cosa, non è un telefono di Davide. Ha messo un po' più di sì, perché ha detto mi sta chiamando Antonio, quindi ce l'avevo nel telefono. Oh, yeah. Non ha scena. Andiamo. Ha resta di giorno. E beh, cosa fate alla processione? Raccontami. Cosa fate con i portatili andare? Sì, già. Con il portatile. Cioè, mentre... Ci vai tu, Gio Maria pure. Ah, io, Antonio e Giovanni. Non lo dovresti conoscere, a Freccia. Ehi, a lui se lo conosco. Se vuole la Freccia non lo conosco. Con la Freccia lo conosco. Ah, c'ha gli apparati lì. Però non sono in buona antenna lì. È la macchina. Ah, boh, macchina non faccio innaggia. Mi pare che è a Pili. No, non lo sta più usando. Prima faceva tutto cavalcata, tutte queste cose le faceva. Io non c'ero anch'io. C'era una buona anima di Battisti, no? Era meno a me, non me lo ricordo. Ci trovavamo sempre in piazza. C'era quel maracchino, quella tracolla, quello della Mille, perché c'era l'antenna che si alza. E tutto quella tracolla, batteria e tutto. Sì, chi aveva quello? Poi ci avevamo preso i portatili nuovi. Uno ce l'ho io che l'ho aggiustato, l'ho messo a posto. Giovanni c'ha il suo, Bacchigio c'ha il suo, e io ce l'ho ancora, l'ho aggiustato, l'ho usato l'altro giorno per vedere se funziona bene. L'ho attaccato all'alimentatore, funziona, c'è un amore. Che portate ne hai? 40 canali, portate 40 canali. No, io mi ricordo i toccai, quelli belli, grandi, tutti in ferro, che belli che erano quelli. Poi una voce, usavamo quelli. Io uscivo con la macchina a prese i cavalli, alla fine, per rubemmo in coso, a San Giuseppe ero fermo. Molte volte salivo su all'ippodromo con la macchina e stavo dietro i cavalli. E allora sì che erano finti. Allora sì. Poi avevamo deciso con il corpo di comprare 10 apparati, avevamo comprato. Quando finivamo durevamo tutti a Giovanni. Lo avevamo e teneva lui. Tu eri iscritto? Poi la tessera ci avevamo. Allora, poi non ci siamo iscritti più, l'ho annullato tutto. Perché poi la gente si scuccia e vi pagliava, no? Quando andavate la cavalcata. Allora, vedevi al prossimo anno per un libro. E vabbè, pensate che vedi, li mettevate in sedio per tenevate voi i soldi. Poi l'ultimo anno, ma se non mi dà di no. E non avevamo fatto, ho bisogno di noi, non avevamo fatto, avevamo lasciato senza né uomini, perché l'ultimo giorno noi stavamo aspettando i soldi e non ci hanno dato, e ci sono trovati senza nessuno, ci sono trovati. A me pare che quello aveva preso i radioamatori, quel servizio. L'hanno preso, l'hanno preso. Poi l'anno che l'abbiamo mollato noi, sugli acciappati senza uomini, senza nulla. E ci hanno detto, dice, che non potevamo mollarli. Sì, infatti io avevo detto che senza denaro non facciamo nulla. Se ci date i soldi immediatamente, subito va bene. Se non ho nulla da fare, non uscivamo. Vabbè, se tagliamo quindi non capa messa, Infatti, ma gli soldi senza uomini, gli soldi. Quelli che hanno trovato hanno chiesto i soldi. Come finiva, chiedevano i soldi subito. Poi l'azienda non ve li voglia dare, anche se no noi li facevamo causa. Ma no, io lo faccio con la decisione del portatore, ma con le radio nostre, che non erano le 10 bici, avevamo anche la 27 in ambulanza, perché a portatore c'erano la 27, e allora quando dovevamo uscire da portatore ci volevamo sapere dove erano i gruppi, eccetera, eccetera, se stavano arrivando, e noi avevamo comunicazione con la 27 MHz. E un anno l'abbiamo aiutato anche noi. Forge alla festa, hanno chiamato e siamo scesi, quindi avevamo detto di no. Ma noi facevamo la camminata quella di notte che partiva da, ma come si chiama, la cavalcavia, e poi andava verso il portatore tutti a piedi, la dinamica si caduva. Pare che quella lì 3 o 4 volte l'ho fatta io con gli altri. Ci vamo con le nostre macchine e scendevamo con le macchine. Mi pare 3 o 4 volte abbiamo fatto. Poi non l'ho più fatta, che non andava più a tirare cose. Era un piccolo e con i lampeggianti gialli. E noi lo facevamo con le ambulanze e con l'Land Rover. L'Land Rover andava e tornava, faceva la scuola e controllava quanto ce n'era a arrivare all'ultimo, poi lo comunicava, noi salvavamo gli incroci, insomma servizio ne avevo quello, lo facevo tutti gli anni, immagino, tutti gli anni c'ero io con l'ambulanza, guidavo l'ambulanza e c'ero tutti gli anni conciso. No, oh, io un paio di volte ne ho buscato due ambulanze, ne ho buscato. Una era senza autista e allora ho chiesto il coso e l'ho portata io. E scendevo e salivo, E il coso, io oggi buscavo io, ti busciavano. E con che associazione? L'associazione dei cibi. Niente, tanto non c'è propagazione, niente. E che buccia mi esci, però no, non è sempre. L'ho fatta per tutta la notte, sino alle 4 di mezzanotte. Io sono alle 7, ti riguardo. Attenzione, canale 23, se ascoltate l'isola della Sardegna che chiama, cambio. Non ne comprendo io. Vabbè, io ti lascio lei che lo portare a casa, mi sta già chiamando. Se vuole scendere giù, bisogna accontentarlo, vai. Ci sentiamo, dottore, stammi bene. Buona serata. Altrettanto già, alle prossime, ok, ciao già. Ciao Gianni, ci sentiamo, ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime. Cioè questo americano arriva, Santiago 5 qua. Ciao Antone, ci risentiamo. Già ti chiamo io prima di della festa. Vabbè, ok, chiamami tu, non c'è problema. Mi chiami o al telefono o cosa? Tanto già ce l'ho tutti e due accesi. L'altro si è incendiato e quindi ci ho messo un altro telefono, ci ho messo. Chiama quando vuoi. Hola.